Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Una nuova settimana di Eclettica, che è anche la prima completamente di dicembre, visto che nella scorsa c'erano stati sì dei giorni di dicembre, ma anche dei giorni del mese che si chiudeva, ovvero sia di novembre. Fra l'altro un mese di dicembre che anche dal punto di vista di Eclettica sarà più corto del solito, nel dirlo mi emoziono anche un po', avete sentito? Più corto del solito perché a fine mese anche Eclettica si prenderà una settimana di pausa per poi ricominciare con l'anno nuovo. Però quest'anno potrebbe esserci una novità a chiusura dell'anno solare, una novità che arriva da voi, una proposta che è arrivata e per cui sto aspettando democraticamente il risultato di una sorta di sondaggio lanciato in lista nera nel corso del fine settimana. In pratica si dovrebbe trattare di una sorta di classifica delle migliori canzoni ascoltate in Eclettica negli ultimi 12 mesi, quindi emozioni trasmesse da singola canzone, dovrebbe essere una cosa di questo tipo. Un fronte freddo autunnale arrivava rabbioso dalla prateria. Qualcosa di terribile stava per accadere, lo si sentiva nell'aria. Il sole era basso nel cielo, una stella minore, un astro morente. Raffiche su raffiche di entropia, alberi irrequieti, temperature in diminuzione, l'intera religione settentrionale delle cose era giunta al termine. Neanche un bambino nei giardini. Ombre e luce sulle zosie già ingiallite. Querce rosse e querce di palude e querce bicolori riversavano una pioggia di ghiande sulle case senza ipoteca. Le controfinestre rabbrividivano nelle stanze da letto vuote. Questo era l'incipit di Le correzioni di Jonathan Franzen. Thank you. Sai come chiamano, eh? Un quarto di libra con formaggio a Parigi? Non un quarto di libra con formaggio. Un sistema metrico decimale, non sanno che cazzo sia un quarto di libra. E come lo chiama? Lo chiama Royal con formaggio. Royal con formaggio. E come lo chiamano il Big Mac? Il Big Mac è il Big Mac, lo chiamano le Big Mac. Le Big Mac. There's a gloom around this bar. It's a fire up the door. It's a fire up the heart of a shadow when it's come to part. Sparrow da parte degli Amandi nel brano che ci siamo appena ascoltati, di cui si parla anche su myspace.com/eclettica. Se andate a vedere nella sezione commenti e seguite un link, trovate una descrizione di un viaggio sui mezzi pubblici che immagino essere milanesi, con la colonna sonora di questo brano. Bello, mi sono piaciute quelle righe, andate a leggerle anche voi nel caso non l'abbiate ancora fatto. Giulio Caperdoni in vostra compagnia, che ha aperto dopo gli svedesi appena citati, ma prima in ordine di sequenza, con l'islandese Bela, un artista, un visual artist che ha esposto un po' in tutto il mondo, Finlandia, Amsterdam, New York, anche nella terra natia islandese. ma poi anche a Glasgow, dove ha deciso di fermarsi e dove pubblica per una piccolissima etichetta locale di nome Say Dirty Records, un disco comunque che è stato registrato nell'isola islandese di Akureyri assieme ad una manciata di amici. Gliene servono veramente pochi, come avete potuto sentire anche dal brano intitolato Down, che ha aperto un'intera settimana di Eclettica, estratto da un album dal titolo Hole and Corner. Allora, è andata bene l'esperienza a due, Eclettica e Audio Globe, per Simon Ben? Anche gli ascoltatori che si sono ritrovati, oltre ad un concerto gratis, anche un disco fra le mani, hanno dato un parere estremamente positivo all'iniziativa. Allora abbiamo deciso di bissarla e ovviamente si continua con nomi che all'interno di Eclettica trovano parecchio spazio. Uno di questi nomi è quello di Miss Kenichi, che sta per arrivare in Italia con un mini tour. Ecco, solo per la data di Firenze, la data che si terrà il 13 di dicembre, Santa Lucia, al Sintetica, che è vicinissimo alla stazione di Santa Maria Novella, per quella data gratuita di Miss Kenichi ci saranno anche tre fortunati ascoltatori di Eclettica che potranno tornare a casa con l'intero album Collision Time. Non ce lo ascoltiamo adesso, sicuramente passerà nella settimana di Eclettica, ma non è questo il momento in cui passa. Per il momento passa la notizia di scrivere a Giulio at RadioRockFM.com più rapidamente che potete per tornare a casa anche con il disco di Miss Kenichi, e magari anche guardarle sotto la gonna per vedere se c'è un arcobaleno tossico o un cane che morde, come dice lei nella canzone che ce l'ha fatta conoscere. E poi per biglietti in palio, sempre all'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com, c'è un concerto milanese qua alla Salumeria della Musica l'11 di dicembre, del concerto di Marco Fabi. Però è arrivato per noi il momento di tornare alla musica, la musica degli Oh No, Oh My di Austin, Texas, che ci stiamo conoscendo dalla scorsa settimana con I Love You All The Time. quando si leggono certe storie c'è sempre da dargli la tara, come si dice, no? Loro tre dicono di essersi conosciuti in una rissa in un locale dell'Ontario, ma non so se sia vero. Comunque, Les Georges Leningrad, questo è il nome del trio formato da Pony P, Mingol Indiene e Bobo Bouten. Sangue Puro, così in italiano, è il titolo del loro album che è uscito per Tomlab e che già era passato qualche settimana fa in Eclettica, proprio con questa Skulls in the Closet, e quest'oggi già ce li siamo riascoltati. Invece ancora ci dobbiamo ascoltare una nuova uscita per Peter Pat, band di Chicago che, come con il precedente lavoro, è andata a registrare ai Soma Studios con l'aiuto di John McIntyre e ha fatto uscire per Thrill Jockey questa Pyramids, dalla quale noi ci ascoltiamo la traccia numero 8. So che è la numero 8, ma non mi ricordo come si intitola. Ah, eccola qua, Solstice. Loro sono Peter Pat.